Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora, la pubblicità qua ci sta rosicchiando sempre più tempo, per cui facciamo un veloce sommario dei nostri argomenti. Che dici? Poi Nico parliamo. Rapidissimo. Tu vai. Di che cosa ti occupi di bello allora, oggi? Allora, Lea, sicuramente. Certo. Poi Albano, che ci fa ancora preoccupare, ma le sue condizioni stanno migliorando. Le donne dell'est non interessano. Poi che vi dico, che siamo il paese più bello, ma questo lo sappiamo, ma anche più sano del mondo. Vero. E sicuramente la dieta mediterranea ci aiuta. E poi che cosa vuoi che ti fa? E poi parlo anche di colite, perché sai che con la primavera si risveglia. Ma è vero oppure lo pensiamo noi? Eccoci qua. Ottimo. È il mese della pancia. Quindi scriveteci i vostri dubbi, gli esperti, oddio, ecco, di Humanitas, si è fatta male. Falciando il microfono, gli esperti di Humanitas ci accompagnano per rispondere a tutti i vostri dubbi, le vostre domande, le richieste di aiuto. I temi di denari invece parleremo in apertura, dopo la borsa naturalmente, della situazione di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, che hanno richiesto nel fine settimana la cosiddetta ricapitalizzazione precauzionale. Intanto si sta completando la cosiddetta offerta transattiva delle due banche per quei risparmiatori che avevano in passato investito in azioni delle due banche non quotate e oggi hanno praticamente perso tutto. La banca ha fatto una proposta risarcitoria che però è molto contenuta, ma i termini stanno completandosi e quindi faremo un punto della situazione. Nella seconda parte invece del programma, a proposito di giornate mondiali di tutti i tipi, oggi tocca ai consumatori perché oggi è la giornata europea del consumatore con due grandi organizzazioni. Faremo un punto sulle battaglie che stanno portando avanti proprio in questo momento. Per tutti gli argomenti di cuore e di denari, Nicoletta, 800 24 00 24, e magari chissà, ci sarà una giornata per cuore e denari, la giornata mondiale di Nicoletta e Deborah. Vediamo quando la lanciamo la provocazione agli ascoltatori. Voi quando la indireste, si dice così? Secondo me per sì. Per quando la organizzereste? Io però che sia una giornata calda, mi raccomando. Partiamo. Borse positive oggi, ma non tutte, perché è Milano che guadagna molto bene. Fino a poco fa era in rialzo di oltre un punto, adesso più 0,88% sul FTSE MIB, mentre le altre piazze europee non sono d'accordo con il buon umore di Piazza Affari. Parigi guadagna lo 0,26%, Francoforte meno 0,04% e Londra meno 0,07%. Peraltro proprio poco fa abbiamo avuto il dato sulla inflazione inglese al 2,3% a febbraio su base annuale. Perché mi focalizzo sull'Inghilterra? Perché come sapete la signora Theresa May, premier britannico, ha formalizzato che dal 29 marzo, quindi da mercoledì prossimo, iniziano i negoziati ufficiali per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Magari monitoreremo un po' quel procedimento, Nicoletta, per verificare chi vuole andare a studiare adesso a Londra, chi vuole andare a lavorare a Londra, che tipo di scenario nuovo si apre in virtù di questa novità. Tornando a Piazza Affari, i titoli migliori oggi, grazie anche alle nuove linee guida, a proposito di linee guida di cui parleremo questa mattina, ma nell'ambito sanitario ci sono anche quelle che sono state divulgate dalla Banca Centrale Europea sulla gestione appunto per le banche, un tema che interessa molto quelle italiane, dei non performing loans, cioè i crediti deteriorati e non più esigibili. Pare che questa notizia sia buona per il comparto bancario italiano perché oggi sostiene Piazza Affari. Banco BPM più 4,45, Popolare dell'Emilia Romagna più 3,90, bene anche le Big Unicredit più 2,29, Intesa San Paolo più 1,77, neanche UbiBanca più 1,94 e Mediobanca più 1,87. Dopo la sberla presa ieri dalla borsa dalle società che hanno avuto il ribaltone ai vertici appunto nel weekend per decisione del Ministero dell'Economia, le aziende parzialmente di Stato oggi recuperano quasi tutte, bene Enel più 0,6, bene Eni più 1,28%, Leonardo Finmeccanica non la trovo, ma è ancora negativa anche oggi, meno 0,46%. Il mercato proprio non digerisce l'arrivo di Alessandro Profumo al posto di Mauro Moretti. Detto questo, andiamo invece alle vicende che riguardano alcune banche italiane non quotate, sulle quale però i nostri ascoltatori ci chiedono di continuare a mantenere un riflettore puntato. Oggi facciamo questo veloce punto su Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che stanno completando l'offerta transattiva che le due banche appunto hanno avviato per rimborsare i piccoli soci che si sono visti praticamente bruciare tutto il loro capitale investito in queste banche. E l'obiettivo delle banche con questa offerta transattiva è azzerare il rischio contenziosi legali. Nel frattempo, notizia del weekend, le due banche hanno chiesto di fare fare ricorso all'aiuto di Stato, come fatto nelle scorse settimane da Banca Monte dei Paschi, hanno cioè chiesto la cosiddetta ricapitalizzazione precauzionale. Qualche minuto di tempo con Katie Mandurino del Sole 24 Ore. Katie, buongiorno e benvenuta. Buongiorno Deborah, buongiorno a voi. Partiamo dall'offerta transattiva dalla quale siamo partiti. Come sta andando? Ricordiamo i termini, quando si completa, ed è vero che le banche sembra abbiano chiesto un prolungamento fino a sabato per consentire appunto ai soci di aderire o meno? Sì, c'è un collo di bottiglia di molti soci che dell'ultimo minuto che stanno pare affollando le filiali e gli appuntamenti si susseguono, per cui c'è l'ipotesi, è plausibile l'ipotesi che i termini, anziché scadere mercoledì 22, quindi domani, scadano sabato, insomma le filiali restino aperte fino a sabato. L'offerta sta andando abbastanza bene, nel senso che ha avuto una forte, consistente, importante accelerata nell'ultima settimana. Ieri la percentuale era più o meno attorno al 58-59% per entrambe le banche. Vero è che resteremo probabilmente lontani anche nel corso di questa settimana dall'80% che era il tetto delle adesioni che in qualche modo si voleva raggiungere per poter riuscire a uscire dal rischio contenzioso. Ecco, ricordiamo perché è importante raggiungere questa soglia percentuale di adesioni, Katie. Questa soglia intanto diciamo che era stata fissata dalle stesse banche, per cui non è un paletto fissato dalla BCE o da Banca d'Italia eccetera, le due banche si sono diciamo prefissate questo paletto perché raggiungendo l'80% di adesioni del perimetro delle quote di azionariato detenute dai soci viene ridotto il rischio contenzioso. Al minimo, in modo tale che non costituisca più un bollino nero sul futuro delle due banche e in modo tale che non si debba accantonare poi una serie di miliardi proprio per il rischio legale. Certo. Probabilmente, essendo un paletto fissato dalle stesse banche, si accetterà anche un 70, un 72, un 75%. Chiaramente il rischio contenzioso poi andrà ricalcolato, però anche con un 70% vero è che il rischio viene molto molto ridotto. Intanto il dossier relativo alle due banche insieme a quello di Monte dei Paschi, ne scrivi oggi tu insieme a Gianni Trovati sulle Sole 24 Ore, Katie, sarà al centro di un incontro fra il ministro dell'economia Padoan oggi e la commissaria europea alla concorrenza Marete Vestager. Sì, oggi c'è l'Eurogruppo e Padoan incontra la Vestager, è un incontro importante e significativo dal quale probabilmente non uscirà nulla di definitivo, però è importante che il governo italiano, l'Italia, si faccia in qualche modo sentire e discuta delle banche italiane in questa occasione, perché dopo pochi giorni, lo dicevi tu prima, la scorsa settimana le due banche venete hanno chiesto la ricapitalizzazione precauzionale. È importante che il nostro ministro ribadisca la necessità di questa svolta. Poi la palla chiaramente passa sia alla Commissione europea che alla BCE. La BCE dovrà dimostrare che le due banche sono solvibili in base ai dati che sono stati richiesti una decina di giorni fa alle due banche. Le due banche hanno mandato delle missive in cui hanno dichiarato di essere solvibili, cioè di avere abbastanza denaro privato, abbastanza denaro in patrimonio per riuscire a coprire tutti i pregressi, la BCE dovrà avallare questa solvibilità, dopodiché la Commissione europea dovrà dire perfetto, va bene, a questo punto io do il via libera alla ricapitalizzazione precauzionale. Perché l'aiuto di Stato, se non viene considerato ricapitalizzazione precauzionale, viene considerato invece come un aiuto al pregresso, e questo non è possibile secondo le nuove norme europee. Katie, grazie per essere stata con noi. Presumibilmente ci risentiamo ad inizio settimana prossima per fare un punto sul bilancio finale dell'offerta transattiva. Noi seguiamo in particolar modo tutto ciò che attiene al mondo del piccolo risparmio, per cui per ora grazie e vedremo appunto grazie se a voi. I termini verranno procrastinati da domani fino a sabato. È tempo di andare a sentire velocemente il traffico, ma torniamo tra pochissimo. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Cuore e denari. E alla fine sono arrivati i LEA, i livelli essenziali di assistenza, cioè le prestazioni e i servizi che il Sistema Sanitario Nazionale deve garantire a tutti i cittadini in maniera uniforme sul territorio. Dopo la firma del Presidente del Consiglio del 12 gennaio, domenica 19 marzo, sono finalmente entrati in Gazzetta Ufficiale e dopo 15 anni, dopo l'ultimo aggiornamento, cambiano volto. Allora andiamo a scoprire le novità insieme a Barbara Gobbi, collega del Sole 24 Ore, di cui linkiamo anche l'articolo sulle nostre pagine. Ciao e bentornata Barbara. Buongiorno, buongiorno Nicoletta e Debora e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Barbara, questo è un tema alla quale denari, perché si parla di cure ma anche di costi, perché è vero che la salute non ha prezzo, ma come ripetiamo spesso la sanità costa. Parliamo di un piano di 800 milioni l'anno più 400 in un triennio per il piano vaccinazione, di cui parleremo più avanti. Barbara. Esatto, sì, la salute, dici benissimo, non ha prezzo, infatti almeno in teoria le risorse per i LEA non basterebbero mai ed è per questo che accanto alle numerose new entry che sono previste dai nuovi livelli essenziali di assistenza è previsto anche un continuo delisting di prestazioni e servizi che man mano usciranno dall'elenco dei livelli essenziali o che saranno erogati con modalità o tecnologie differenti e aggiornate. E noi naturalmente vi terremo aggiornati. Ma Barbara, torniamo a noi e partiamo proprio dall'inizio. Quindi cominciamo dalla maternità, a cui sono riconosciute più tutele. Esatto, sì. In gravidanza saranno escluse dalla compartecipazione, cioè dal pagamento di un ticket, le visite periodiche ostetrico-ginecologiche, i corsi di accompagnamento alla nascita e l'assistenza in puerperio. In caso di minaccia di aborto non si paga il ticket neanche per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale che sono necessarie per monitorare l'evoluzione, certo, della gravidanza. E rientra sempre nei LEA, ma con pagamento di ticket questa volta, lo screening neonatale per le diagnosi precoci di malattie ereditarie. Mentre poi c'è tutta la fase che precede il concepimento e in questa fase il Servizio Sanitario Nazionale garantisce la selezione dei donatori di cellule riproduttive in attuazione delle direttive europee su questo tema. E le coppie che si sottopongono alla procreazione medicalmente assistita eterologa dovranno però contribuire ai costi, cioè pagare un ticket nella misura che sarà fissata da ciascuna regione. Andiamo al capitolo delle malattie rare. Tra l'altro noi qua a Cuore Denari ne abbiamo parlato molto, con un bel progetto, esatto, più unici che rari. Tante testimonianze, molto toccanti anche. In collaborazione con Teleton, e che vi invitiamo naturalmente ad andare ad ascoltare. Ma Barbara, nello specifico, nei LEA vengono inserite 110 nuove malattie rare e tutte le prestazioni sono erogate in regime di esenzione dai ticket. Senz'altro, sì, tra le patologie che singolarmente o per gruppi di patologia con i nuovi LEA rientreranno in questo nuovo elenco delle malattie rare figurano patologie importanti come la sarcoidosi, la sclerosi sistemica progressiva e la miastenia grave. Vorrei ricordare qui comunque che il nuovo elenco sarà operativo 6 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta, quindi a fine settembre, per dare anche la possibilità alle regioni e ai servizi regionali di adeguarsi a questo nuovo inserimento in lista. Sempre scorrendo il testo si arriva alle malattie croniche. L'attuale lista viene sostituita da un nuovo elenco in cui sono inserite nuove patologie. Barbara, quali sono le new entry? Entrano 6 nuove patologie nel gruppo delle malattie croniche: la broncopneumopatia cronica ossuttiva, cioè la BPCO, sì, il rene policistico autosomico dominante, l'osteomielite cronica, l'endometriosi però negli stadi più gravi, lo stadio 3° e 4°, le malattie renali croniche e la sindrome da talidomide. Vorrei anche ricordare che vengono spostate nel gruppo delle malattie croniche alcune malattie già esenti, però diciamo prima classificate come malattie rare, tra le quali la celiachia e la sindrome di Down. Un giro di vite invece per le prestazioni che riguardano l'ipertensione. Ci spieghi cosa cambia, perché considerando il numero di persone ipertese l'interesse è molto alto? Esatto, sì, i pacchetti di prestazioni garantite in regime LEA di una serie consistente di patologie oltre all'ipertensione sono stati rivisti con l'eliminazione di parte dell'offerta, questo va detto agli ascoltatori, e con l'indicazione di periodicità definite per la loro classificazione. È stato ridotto per quanto riguarda l'ipertensione che ricordiamo colpisce il 33% degli uomini e il 31% delle donne in Italia, quindi una fetta consistente della popolazione. Per quanto riguarda, diciamo, i casi in cui non si presentino dei danni d'organo, per cui sicuramente c'è l'esenzione, viene mantenuta, ma soltanto per i casi più gravi. Selezionati. Sì. Poi c'è un'offerta ampia per quanto riguarda la copertura vaccinale, tra cui, come avevamo anche anticipato in altre puntate, l'estensione del vaccino per il papillomavirus anche agli adolescenti di sesso maschile. Esatto, sì. I nuovi LEA, come dicevi tu anche all'inizio, recepiscono di fatto il nuovo Piano Nazionale Vaccini 2017-2019 che è stato approvato proprio di recente, era la conferenza Stato-Regioni. E recepiscono quindi l'ampio calendario per la vita che era stato proposto in realtà già un paio di anni fa dalle società scientifiche di medici, igienisti e pediatri. Tra le profilassi che entrano l'antipneumococco, l'antimeningococco, e ovviamente, come dicevi tu, anche l'antipapillomavirus per gli adolescenti di sesso maschile, è stato per la corte di 11 anni. E le regioni, grazie anche ai circa 400 milioni in un triennio che sono stati stanziati dalla legge di bilancio, dovranno garantire il raggiungimento della copertura vaccinale con una tempistica ben precisa da calendario, anche per il meningococco B, per il rotavirus nel primo anno di vita, per la varicella e per l'IPV meningo tetravalente negli adolescenti e per gli anziani, per lo pneumococco e lo zoster. Se volete saperne di più, come abbiamo detto, abbiamo linkato l'articolo di Barbara Gobbi sulle pagine del nostro programma. L'articolo titola "Più vaccini e protesi, meno ricoveri". Siamo in chiusura, Barbara. Tutti questi cambiamenti che sulla carta sono entrati in vigore il 19 marzo non saranno, come anticipati, immediatamente fruibili dal cittadino. Molto dipenderà dagli accordi Stato-Regioni. Ci auguriamo però che i LEA siano attuati dappertutto, certo, e non una macchia di leopardo. Pardo, o come dire, in ordine sparso. Esatto, possiamo, sicuramente. Incrociamo le dita, insomma. Incrociamo le dita, certo che comunque si tratta di prestazioni molto innovative, sto pensando ad esempio all'adroterapia per la cura dei tumori, che andrà recepita quanto prima su tutto il territorio. In ogni caso, una commissione di verifica e controllo ogni 3 mesi farà il punto anche sullo stato di attuazione nelle singole regioni, quindi il monitoraggio si preannuncia molto molto stretto. Ma noi stiamo in contatto anche naturalmente con i nostri ascoltatori, anche con Barbara, che certo invitiamo a tornarci a trovare presto. No, anche se prima di andare a leggere l'articolo vogliono riascoltarla naturalmente a cuore denari, noi veicoleremo qua. Naturalmente grazie. La sua voce molto volentieri. Buona giornata. Grazie a Barbara Gobbi, grazie per la vostra attenzione. Noi stiamo guadagnando tempo per andare al nostro GR, certo, tra poco, ma subito dopo parliamo anche di temi molto caldi, parliamo di salute, siamo in cima alla classifica, la dieta mediterranea ci protegge, naturalmente fa la sua parte, poi non tutta, ci vuole anche un po' di impegno da parte nostra e anche un po' di fortuna, perché esatto. No? E noi invece parleremo dal punto di vista dei denari, oggi dei diritti dei consumatori. Settimana scorsa si è celebrata la giornata mondiale dei diritti dei consumatori, peraltro richiameremo anche un pronunciamento molto importante al congresso americano, addirittura di John Kennedy, su questo argomento. Oggi invece è la giornata europea del consumatore, per cui le battaglie, le sfide, le preoccupazioni dei nostri ascoltatori. E noi per Cuore Denari, che giornata, sempre aperto. Che giornata scegliamo? Esatto. Suggeritevela voi. A tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Cuore e denari. Torna a farci preoccupare la salute di Albano, Deborah. Mannaggia. Tra l'altro era nelle Marche. Hai dove visto? Quando gli è proprio capitato. Esattamente lì, domenica scorsa, che era il giorno della festa del papà, mentre faceva ritorno a casa da Porto Sant'Elpidio, siamo quasi a casa tua, esatto, in provincia di Fermo. È stato accolto da un malore, si è fatto accompagnare al policlinico di Bari, è stato sottoposto ad accertamenti, poi è stato trasferito all'ospedale Vito Fazzi di Leggio, dove è ricoverato nella stroke unit, che è un reparto proprio specializzato nella cura dell'ictus. I medici riferiscono che Albano è vigile, orientato, collaborante, ha conservato integre le funzioni cognitive, gli è stato prescritto il massimo riposo, nel frattempo le sue condizioni stanno migliorando e noi naturalmente gli auguriamo di tornare presto a cantare, che è proprio il desiderio che lui, si legge in agenzia, ha manifestato. Insomma, è difficile tener fermo Albano. Esatto. Comunque, in linea con noi abbiamo il professore Elio Agostoni, direttore del Dipartimento di Neuroscienza all'ospedale Niguarda Cagrande a Milano e vicepresidente della SIN, che è la Società Italiana di Neurologia. Buongiorno, professore. Buongiorno a lei e anche a Deborah Rosciani. Buongiorno. Allora, anche proprio a Deborah Rosciani. Rosciani, anche. Sono molto raccomandata dal professore Agostoni. Allora, intanto noi non entriamo nel merito della storia clinica di Albano, di cui conosciamo solo quello che leggiamo sulle agenzie e sui giornali, ma ci aiuti un po' a capire. Quando si legge leggera ischemia, che cosa dobbiamo pensare? Che cos'è? Dunque, l'ischemia cerebrale è, per essere abbastanza semplici, è un infarto, è l'omologo, diciamo, dell'infarto cardiaco. A che cosa è dovuta? È dovuto alla occlusione, quindi alla chiusura di un'arteria cerebrale, il tessuto che è rifornito di sangue da questa arteria muore e quindi questa è la lesione ischemica, muore in diverse tappe, non immediatamente naturalmente, però l'ischemia è un infarto dovuto alla occlusione di un'arteria cerebrale. Sempre leggiamo che Albano, ma non per parlare di Albano, ma per dare delle indicazioni ai nostri ascoltatori, è stato sottoposto a trombolisi intravenosa, che è una terapia specifica che viene praticata alle persone colpite da ictus entro un tempo abbastanza breve. Esatto, la trombolisi sistemica, si chiama così, endovenosa o sistemica, è fatta con un farmaco capace di sciogliere un trombo appena formato. Quindi, iniettando questo farmaco in un tempo determinato, quindi per un'ora, un'infusione di un'ora, la probabilità di sciogliere questo trombo, che poi è la causa dell'occlusione dell'arteria, esattamente, è molto alta, almeno nel 40% dei casi riusciamo solo con questa procedura a sciogliere il trombo. C'è da dire che quando l'arteria occlusa, questo per completezza oggi bisogna dirlo, quando l'arteria occlusa è una grossa arteria intracerebrale, e ho detto prima che solo il 40% dei casi si ha la soluzione del problema con questo farmaco, noi possiamo oggi anche catturare meccanicamente il trombo navigando nelle arterie con dei device molto complessi e proprio catturare e portare fuori il trombo dalla circolazione generale. Quindi disostruiamo l'arteria, e la combinazione di queste due terapie, quando però c'è un'indicazione, quindi trombosi di un grosso vaso, è decisamente capace di aumentare la percentuale di risultati positivi. Diciamo spesso, professor Agostoni, che cuore e cervello sono uniti nella buona e nella cattiva sorte. Albano, pochi giorni prima di Natale, era stato operato per problemi cardiaci, ma aveva superato con successo l'intervento, tanto che due mesi dopo era sul palco del Festival di Sanremo. Eventi cardiovascolari, professor Agostoni, possono rappresentare un fattore di rischio aggiuntivo? Sicuramente sì, ci sono poi, c'è una graduazione anche qui da fare, ci sono delle patologie cardiache che costituiscono un alto rischio per una trombosi cerebrale, per un'embolia cerebrale, e queste sono prevalentemente rappresentate dalle patologie aritmiche, la più famosa è la fibrillazione atriale. Esattamente. Avevamo fatto una puntata. La fermo un attimo perché parliamo di fibrillazione atriale, poi arrivano naturalmente i messaggi, quando il cuore fibrilla, ma noi ce ne rendiamo conto? Non sempre, anzi quasi mai, si chiama fibrillazione atriale con risposta ventricolare lenta. La risposta ventricolare lenta in pratica sono battiti che rimangono contenuti in una frequenza normale, per cui le persone non si accorgono, non hanno quelle che invece in condizioni differenti, quindi risposta ventricolare rapida, hanno le palpitazioni. Ecco, solo in questo caso si accorgono e vanno dal cardiologo, altrimenti, soprattutto nella popolazione più anziana, la fibrillazione atriale può essere del tutto asintomatica. E quindi sottodiagnosticata. Esatto. Esatto. Quindi, tornando a noi, il cuore può, problemi cardiovascolari possono in qualche modo rappresentare un fattore di rischio per la salute del nostro cervello. Esattamente, il rapporto tra cuore e cervello è, come dire, in andata e ritorno, cioè il cuore condiziona il rischio del nostro cervello, il nostro cervello è capace di far arrestare il cuore quando ha delle lesioni importanti. Qualche tempo fa su Lancet era stata pubblicata una ricerca secondo cui le persone che lavorano molte ore hanno un maggiore rischio di ictus rispetto a quelle con un orario standard. Albano naturalmente non lavora in ufficio, ma deve far fronte a tanti impegni, serate, concerti, sicuramente lavora parecchio. Professor Agostoni, anche la il lavoro con Romina, anche chissà quanto gli la genera stress, anche no, con la Loredana, adesso non è con Loredana. Sì, però la questione è che comunque richiamano frequentemente un ritorno di fiamma, chissà lui quanto si indispettisce un po' per tutto questo, no? Ma, allora, il lavoro, l'emotività, l'amore, le serate, in qualche modo lo stress e la fatica adesso, che guardi, ciascuno di noi può, no, sperimentare, non solo Albano. Certo. Io le dico il mio pensiero. Immagino non sulla Lecciso, ma non sulla Lecciso. Il mio pensiero rispetto a questo problema del super lavoro, chiamiamolo così. Allora, il problema non è il lavoro, non è l'esposizione oraria, perché entrando nel normale, la categoria dei medici lavora enormemente anche di notte, quindi fa delle cose e non è che ammala, diciamo così, più di altri da un punto di vista dell'ictus in particolare. Ora, io credo che invece sia le componenti che stanno all'interno dell'esposizione al lavoro, quindi i dissidi, i disastri psicologici, quello che viene chiamato genericamente stress, insomma. Questo sicuramente condiziona. O sangue amaro, un tempo, no? Mi faccio il sangue cattivo, il sangue amaro. Esattamente, è quello lì. Perché per l'assioma contrario è il lavoro nobilita l'uomo, quindi sarebbe ben difficile pensare che lo ammazza. Io non credo, anche se ci sono alcuni lavori naturalmente che sono sicuramente a maggiore rischio, però se la motivazione del lavoro è forte, se le persone sono contente, e purtroppo poche sono contente del lavoro che fanno, allora io penso che anzi sia una carica notevole per... un antirischio. Allora, dalla storia di Albano che cosa impariamo? Che alla prima avvisaglia non ha aspettato, ma si è recato all'ospedale, certo, per fare delle indagini, degli accertamenti. Ricordiamo che la caratteristica principale dell'ictus è la sua comparsa improvvisa, ma aggiungiamo un'altra informazione, professor Agostoni. L'ictus si presenta in modo molto chiaro. Allora, ci sono dei sintomi che ciascuno di noi deve conoscere per sé, ma anche per essere d'aiuto ad altri. Sono spie di allarme rosso, sono molto poche, si contano sulle dita di una mano. Professor Agostoni, ce le ricorda? Quali sono i segnali che noi non dobbiamo trascurare? Ma allora, non dobbiamo trascurare di fronte a un paziente con un sospetto e con un probabile ictus alcuni segni, per esempio avere la faccia deformata, la bocca storta che tira da un lato, mettere una persona, si può fare anche per strada, con le mani distese in avanti e capire se una delle due braccia slivella, cioè cade verso il basso o tende a cadere verso il basso. Queste due cose, che sono molto semplici, sono già sufficienti per far scattare un allarme. Ci sono poi alcune avvisaglie che avvengono molto precedentemente, che sono gli attacchi ischemici transitori e che possono anche preallertarci che succederà qualcosa di più grave e quindi un vero ictus, perché quello è un fattore di rischio molto importante. Quello che voi chiamate TIA, quindi magari la vista si offusca, si ha difficoltà nel parlare, si sente un formicolio, si ha una forte cefalea, tutto dura pochi minuti, poi tutto torna come prima. Attenzione, non trascuratelo, parlatene con il vostro medico. Professor Agostoni, a proposito di cuore e cervello, ha letto che siamo il paese non solo più bello ma anche più sano del mondo. Sì. Classifica di Bloomberg, gli italiani sono il popolo più sano del mondo, segno che il nostro stile di vita funziona, mangiamo bene, viviamo bene. La dieta mediterranea protegge sia il cuore che il cervello, o perlomeno ci dà una mano a tornare presto a stare bene, perché... Ma decisamente sì, decisamente vero questo, nel senso che i fattori alimentari, gli stili di vita, diciamo così, e quindi l'alimentazione, e contemporaneamente aggiungerei il movimento, sono due fattori che congiuntamente possono agire in modo molto positivo, riducendo tutte quelle che sono i fattori di rischio più importanti. Lei pensi che il movimento, cioè quindi una camminata a passo veloce di 40 minuti, è capace di ridurre il rischio quasi come, come l'aspirina. E attraverso che cosa? Attraverso la riduzione della pressione arteriosa, facendo un'attività motoria come questa, si riduce di 5-10 mm di mercurio la pressione arteriosa, quindi più che prendere una medicina. Quindi lo stile di vita quando siamo ancora sani è fondamentale. Quindi così 40 come... minuti di camminata valgono un'aspirina. Io penso a quante aspirine hai prendo. Risparmiato? Risparmio. Andiamo a Michele, che ci chiama da Pistoia. Buongiorno Michele, benvenuto. Pronto? Pronto Michele! Buongiorno! Buongiorno Michele. Allora? Io volevo fare questa domanda, perché io se no non vengo a capo di nulla. Io sono un anno e mezzo che ho avuto una trombosi alla vena centrale della retina, ho perso 9 decimi di vista dall'occhio destro. Tutte le volte che vado a fare la visita dall'oculista, perché sto facendo iniezioni intravitreali che servono a poco, mi sta continuamente a dire: ma lei ha avuto infarti, lei ha avuto ictus, e io sono 4 anni che vado a farmi visitare dal cardiologo anche prima di aver avuto questa trombosi. Il cardiologo non mi ha mai, dice che io sì, un po' di pressione alta, ma niente di particolare, non ho mai avuto problemi. Sono cambiato cardiologo, questo cardiologo sembrava avesse trovato un probabile indizio, invece si brancola nel buio. Ma il professor Agostoni può darle una mano. Professore, cosa deve fare il nostro amico Michele? È chiaro che una trombosi della vena centrale della retina, siamo in un altro capitolo. Certo, intanto siamo ci vuole sulle un oculista. E non sulle arterie, ci vuole un oculista. Però è pur vero che la stima del rischio globale va comunque fatto, ma va comunque fatto soprattutto guardando anche altri fattori, la coagulazione del sangue, eccetera, eccetera. Non c'è un nesso diretto tra la trombosi della vena centrale della retina e l'ictus, questo certamente no. Ecco, almeno una cosa l'abbiamo eliminata. Michele, comunque ci scriva, professor Agostoni, la ringraziamo per essere stato con noi, soprattutto per la sua chiarezza, per farci capire con parole semplici problemi complessi. Grazie, professore. Grazie a voi. A lei. Buona giornata. E allora adesso noi cosa facciamo? Dopo il cuore e il cervello chiudiamo parlando della nostra pancia. La panciotta. La pancia, pancione, pancetta, pancina. La vorremmo tutti piatta e soprattutto silenziosa, non dolente, ma sai, ognuno ha la pancia un po' che si che trova. Che si merita. Non so se si merita, che si trova e che si merita. Allora vi ricordo che comunque marzo è il mese della pancia, gli esperti di Humanitas sono a vostra disposizione per tutte le vostre domande. In linea con noi diamo il benvenuto anche noi a una new entry dell'Humanitas, la dottoressa Federica Furfaro, giusto? Ho sbagliato? Buongiorno, l'accento corretto, era giusto. Buongiorno, sì. Gastroenterologa del Centro per le Malattie Infiammatorie di Humanitas. Dottoressa, parliamo della nostra pancia, è arrivata la primavera e si sa che con la bella stagione la natura si risveglia, ma non solo, il cambio di stagione ci fa avere anche un po' di problemi, poi le analizzeremo nel corso naturalmente di questi mesi, ma anche la nostra pancia borbotta, duole, si lamenta e nel linguaggio comune si dice, arriva con la primavera arriva la colite. Lei che dice? Ebbene sì, arriva la colite di cui parliamo in primavera è la colite che definiamo più comunemente la sindrome del colon irritabile. Sì. I pazienti lamentano dolore addominale, stitichezza o diarrea, spesso sono alternate, crampi, gonfiore, muco nelle feci, questi sono i sintomi che più comunemente si manifestano ed il cambiamento di stagione effettivamente sembrerebbe una possibile causa di una riacutizzazione di questa sintomatologia, per cui in primavera cambio stagione, arrivano le belle giornate ma arrivano anche i dolori. Pancia e i primi dolori. Dottoressa, allora ci dà in 3 indicazioni per mettere a tacere la colite, per mettere un po' tranquilla la nostra pancia, poi dobbiamo lavoreremo anche sul tono della pancia, si avvicina la bella stagione, tutti vorranno avere gli addominali scolpiti, la pancia piatta, ma su questo dedicheremo del tempo e ci vuole più tempo. Dottoressa, allora colite SOS, che fare? 3 consigli. Sicuramente è fondamentale bere almeno 2 litri d'acqua al giorno, possibilmente acqua naturale e non gasata, perché i gas e tutte le bibite gasate, gonfiando la pancia, ci danno quel senso di appunto gonfiore, il meteorismo, e meglio se lontano dai pasti. Ma questo vuol dire che io no, è meglio se per chi ha problemi di pancia non si deve bere durante i pasti? Sì, è preferibile perché rallenta la digestione, okay. Per cui bere lontano dai pasti è molto meglio. Mm-hmm. A questo associare un'attività fisica è fondamentale, perché il nostro intestino risente moltissimo dell'attività fisica del nostro organismo. E il terzo punto fondamentale per un intestino felice è mangiare fibre, frutta e verdura, considerando però che alcuni legumi, alcuni ortaggi come il cavolfiore, i porri, i broccoli, sono delle sostanze che sono degli alimenti che possono gonfiare, dalle gonfiore, per cui meglio i legumi decorticati, meglio i passati, evitare la frutta secca in eccesso, evitare la frutta subito dopo i pasti, perché essendo molto zuccherina il carboidrato fermenta di più, per cui ci dà queste sensazioni e questi disturbi della famosa colite, detta anche nervosa. Meglio cotta o cruda la frutta e la verdura? Sì, parliamo sempre per le persone che hanno un po' la pancia un po' sensibile, che si irrita facilmente. Va bene cotta, va bene cruda, il problema è il tipo di ortaggio che poi preferiamo, appunto. Ci sono quegli ortaggi che danno una maggior quantità, producono, portano alla produzione di una maggior quantità di gas, anche i funghi per esempio, i dolcificanti, le caramelle, tutto quello che ha zucchero all'interno, come dire, peggiora questa condizione, per cui bisogna stare semplicemente, ovviamente non evitare, io sono contraria alle diete drastiche, ma limitarli, soprattutto in questo periodo dell'anno, può essere una buona idea per migliorare la sintomatologia dei nostri pazienti. Quindi ricordiamo AFA, acqua, fibre e attività sportiva. Esattamente. Semplice, acqua naturale, meglio lontana dai pasti, fibre, frutta e verdura, eliminiamo magari magari un po' riduciamo cavolfiori, broccoli, e poi ciascuno di noi, facendo magari un diario alimentare, può scoprire se ci sono dei prodotti, ci sono degli ortaggi che provocano gonfiore o magari tensione addominale, perché siamo tutti un po' diversi, siamo unici e speciali. Anche nella reazione, nella relazione con il cibo. Dottoressa, la ringraziamo per essere stata con noi. Grazie a voi per i suoi consigli. Ricordo, gli specialisti di Humanitas sono a nostra disposizione. La pancia è al sicuro. Ancora il prossimo mese parleremo di cervello. Oh mamma mia. Sì, ottimo. Lo terremo in forma e faremo, no, stavo daremo pensando tutti che i segnali. Ieri sera per cena ho mangiato il cavolo nero. Anch'io lo faccio in zuppa, buonissimo. Esatto, però insomma promosso, ma non al 100%, con un po' di attenzione questo ma tu non c'hai nulla, sei un corallo. Dottoressa, grazie, buona giornata. Io bevo buona acqua gasata. Andiamo a sentire i mercati. Sono frizzantini? Sì, sono frizzantini. Dai. Tutto un quadretto abbastanza positivo, vedo. Andiamo. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Quando al consumatore viene proposto un prodotto non di qualità, quando i prezzi sono esagerati, i farmaci non sono sicuri o utili, quando il consumatore non è in grado di decidere sulla base di una corretta informazione, allora i suoi dollari diventano avariati, la sua salute e la sua sicurezza sono minacciati. L'interesse nazionale ne risente. Un'affermazione pazzesca che potrebbe essere tranquillamente ricondotta ai giorni nostri, invece Nicoletta pensa nel 1962, sa chi l'ha pronunciata? Dai che lo sai. Dai, perché sì, l'hai perché letto. Me l'hai detto prima. No, l'hai detto prima anche tu in l'ho apertura. L'ho anticipato, quindi mannaggia. Allora non faccio il quizzettone su questo, ma su un altro argomento, ce l'ho già in mente. Ebbene sì, lo ha detto il presidente americano John Kennedy. Parlò nel 1962 per la prima volta dei diritti fondamentali del consumatore. E allora lo fece proprio il 15 marzo al Congresso americano, e nel 1983 le Nazioni Unite ricorrombero la validità di quanto affermato dal presidente Kennedy e istituirono la giornata mondiale del consumatore. Nel 99 poi fu indetta anche la giornata europea prevista appunto ogni anno. Insomma, abbiamo giocato molto in questi giorni con la questione delle giornate mondiali e celebrative di diversi aspetti della nostra vita. Abbiamo persino scomodato la poesia ieri e da un poeta ci siamo fatte mettere in relazione lavoro e felicità. Di solito le giornate mondiali infatti riguardano, Nicoletta, i temi della salute, no, prevalentemente, però ne abbiamo qualcuna anche sui temi economici. La settimana scorsa, dicevamo, il 15 marzo è stata la giornata mondiale dei diritti dei consumatori, una ricorrenza importante per promuovere le norme legislative, facilitarne la conoscenza e il rispetto, e come dicevamo poco fa corrisponde proprio al giorno in cui Kennedy elencò al Congresso americano i diritti fondamentali per i consumatori. Oggi invece è la giornata europea del consumatore ed è corretto enfatizzarla perché oggi le sfide del consumerismo vengono lanciate soprattutto da Bruxelles, ma non solo. Lo sa molto bene intanto una delle nostre ospiti di questa mattina, che praticamente vive più a Bruxelles che a Milano, Luisa Crisi Giovanni, segretario generale di Altro Consumo, che salutiamo, una grande amica di Cuore Denari, ben ritrovata, buongiorno. Buongiorno. Grazie mille Deborah, Nicoletta, e un buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Anche se in realtà, esatto, negli ultimi giorni più che a Bruxelles è stata a Berlino, e poi vi racconteremo per quale motivo. Salutiamo anche un'altra amica di Cuore e Denari, un altro gradito ritorno, quello di Mara Colla, presidente di Conf Consumatori, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno Luisa. Ecco, si salutano anche tra di loro perché ovviamente si frequentano. Allora, intanto salutiamo anche i nostri ascoltatori e chiediamo loro se vogliono intervenire all'800 24 00 24. Vi siete mai rivolti ad un'associazione dei consumatori? Siete riusciti, grazie all'aiuto di un'organizzazione dei consumatori, a venire a capo magari di una vostra difficoltà, di un contenzioso con un'azienda, con un operatore della telefonia, con una banca? Insomma, le circostanze di contenziosa conflittualità sono sempre tante. Un po' troppe per i nostri gusti. Oppure vi siete per esempio abbonati anche ad un'associazione e avete stabilito una relazione fissa con questa associazione, per l'appunto raccontatecelo se volete anche scrivendoci al 349-238-6666. Completo il quadro dicendo che oggi a Malta, magari Luisa qui mi può aiutare lei, si celebra lo European Consumer Day con un programma molto nutrito, e tra i vari argomenti di cui si discute a Malta c'è proprio forse quello che in questo momento vi è più chiaro: la nostra relazione con il mondo digitale, perché è quello il terreno su cui oggi si scontrano un po' i consumatori, nel senso che stanno avendo queste nuove abitudini di frequentazione del web, e qualche conflittualità e contenzioso si scatena proprio in quel mondo. Poi sono contenziosi un po' più difficili da gestire. Crisi Giovanni, le battaglie nuove delle associazioni dei consumatori quali sono? Ma oramai noi viviamo non solo in un mondo globale, ma in un mondo appunto che è anche molto digitale. I millennial passano mediamente 3 ore del loro tempo sugli smartphone, quindi quando parliamo di digitale non dobbiamo pensare soltanto al PC, ma soprattutto al telefonino. Ora, come dicevi tu, Deborah, a Berlino il 15 marzo si è celebrato questo summit, non a caso a Berlino perché era un summit organizzato da Consumer International, che è la federazione a cui Altro Consumo appartiene, per lanciare un po' una sfida al G20, quindi ai governi del G20, affinché vadano, diciamo, a dotarsi di strumenti che possano misurare quanto in ogni paese che appartiene, diciamo, ai G20, ma anche più generalmente alle Nazioni Unite, sia davvero rispettata la protezione dei consumatori lanciata da Kennedy nel 62, cioè sviluppare una serie di indicatori che ci dicano, per esempio, se in Italia, così come in Ghana, c'è effettivamente un accesso a internet attraverso la banda larga di qualità, oppure no, perché poi parliamo anche di accesso e di trasparenza. Quindi lì si è discusso soprattutto di un'economia digitale fatta quindi di in qualche modo regole o comuni problemi che possono avere delle soluzioni che riguardano sì magari i governi nazionali e le autorità di vigilanza, ma anche poi alla fine le organizzazioni che rappresentano i cittadini. Perché questo? Perché quando noi parliamo di economia digitale, noi parliamo soprattutto di un'economia fatta di dati che sono spesso prodotti dai consumatori stessi, tutte le tracce che noi lasciamo online piuttosto che i nostri commenti attraverso i social, e questo ha un valore. Un valore anche economico. Ovvio. Quindi, al di là dei regolamenti, e l'Europa in particolare ne ha scritto uno molto importante che ha aggiornato appunto le disposizioni in materia di privacy e che entrerà in vigore nel maggio del 2018, il regolamento 679 del 2016. Noi vogliamo in realtà che i consumatori siano consapevoli di quello che non solo sono le disposizioni e le norme che dicono loro che devono dare un consenso quando firmano un contratto per l'utilizzo dei loro dati, ma soprattutto siano consapevoli del fatto che questi dati hanno un valore, per cui se loro decidono, diciamo, di farsi profilare per avere un servizio più su misura, questo dovrebbe tradursi in magari uno sconto, anche un valore economico. Quindi da una parte una maggiore consapevolezza, ed è per questo che Altroconsumo ha proprio lanciato il 15 marzo scorso il manifesto, sul nostro sito, manifesto per dire essenzialmente ai consumatori che devono essere protagonisti di questo processo che, tradotto in soldoni, significa, secondo alcune proiezioni, un passaggio dal 2 al 4% del prodotto interno lordo dell'Unione Europea in termini di valore da qui a qualche anno. Ho proprio aperto la pagina di Altroconsumo su questo manifesto, My Data is Mine, il manifesto per costruire un mondo digitale sicuro e consapevole. I miei dati contano. Insomma, queste sono un po' le nuove frontiere delle battaglie dei consumatori per invitare i consumatori ad una presa di coscienza rispetto alle tematiche nuove con le quali si scontrano. Detto ciò, poi rimane anche tutto l'ambito tradizionale, come dicevo prima, i nostri disappunti, i nostri contenziosi, le nostre lotte con l'operatore della telefonia, con l'erogatore del gas e dell'energia, con la banca. Mara Colla, andiamo a lei. Peraltro in questi anni un po' ci è capitato anche di farlo sviluppando molte relazioni anche a Cuore Denari, prima mi capitava naturalmente con Salva Danaio, con le varie associazioni dei consumatori, e siete, come dire, preparati ad affrontare ogni tipo di problema che riguarda la vita appunto di noi cittadini come consumatori, ma poi in realtà abbiamo anche capito che ogni associazione un po' viene percepita magari con una specificità, con una specializzazione. Se lei dovesse presentarci appunto la vostra, è d'accordo con questa affermazione, oppure vi occupate comunque, provate ad occuparvi di tutto, o vi piace in qualche maniera essere riconosciuti come l'associazione dei consumatori che punta su certe battaglie? Mara Colla. Ma diciamo che il consumatore ci porta qualunque problema, come è immaginabile, e poi però quando il problema, chiamiamolo così, diventa di una intera categoria di persone, allora porta l'associazione a investire risorse umane, anche economiche, per sviluppare, approfondire, studiare e quindi trovare delle soluzioni, oltre che per la tutela di quel numero ingente di persone. E così capita che ci si specializzi per rendere un servizio migliore, non solo, ma una volta che si soddisfa la necessità di dare la qualità migliore della professionalità più alta possibile che si può esprimere, ci si sforza anche di fare innovazione, cioè di andare in qualità di associazione che rappresenta i cittadini, di andare anche da chi ha possibilità di modificare la situazione, andare a proporre le soluzioni, insomma, quelle che noi riteniamo soluzioni. Certo, la vostra capacità adesso, a prescindere dalle class action che non hanno avuto grande successo, però in qualche maniera le fate, ecco, le portate avanti, le battaglie collettive. E andiamo a ragionare con. Quindi questo è un po'. Dopodiché è possibile che un'associazione venga riconosciuta come quella che ha fatto la determinata cosa, però nella mia, per esempio, di associazioni è anche possibile che per un periodo venga riconosciuta e ricordata per una attività e per un periodo successivo per un'altra, perché dipende evidentemente anche dalle urgenze. Per esempio la vostra, la sua qual è, Presidente, se ne dovesse ricordare una? Qual è quella per cui siete? Da 13 anni abbiamo sviluppato molto l'attività di tutela del risparmio privato delle famiglie. Che voi avete un avvocato, Giovanni Franchi, che ha portato a casa una marea di risultati, di indennizzo, azioni risarcitorie per i bond Parmalat, Argentine, non solo, abbiamo intervistato molte volte. Sì, sì, abbiamo anche un ufficio legale piuttosto ferrato, che per esempio noi siamo stata la prima associazione, non so se la sola adesso, a citare Veneto Banca. per dire, l'atto di citazione è a più di 70 pagine, cioè voglio dire che alcuni problemi necessitano i vostri studi legali sono molto seri. Cioè qui non si scherza perché abbiamo di fronte delle potenze, quindi non si fa per fare, si fa per avere un risultato e quindi si approfondisce assolutamente fino in fondo per essere in grado di contrapporre argomenti e dati. Non si fa per fare, dice Mara Colla, perché effettivamente è vero, insomma, le associazioni dei consumatori, oltre alle sottoscrizioni dei privati, vivono anche perché sono parzialmente riconosciute dal punto di vista economico dal Ministero dello Sviluppo Economico. E un'altra cosa che voglio ricordare prima di andare in pausa è che tante volte anche grazie a loro noi siamo in grado di portare per primi delle notizie, purtroppo non siamo in grado di, Nicoletta, e questa è una nostra grande, un grande cruccio, valorizzarle adeguatamente. Per esempio Mara Colla proprio all'inizio dell'anno era stata la prima a segnalarci il caso dei risparmiatori che erano incappati nei fondi immobiliari di Poste Italiane e poi naturalmente è un po' caduta nel vuoto la nostra voce, lo fa un grande giornale questo servizio su questo tema e sembra che lo scoprano loro, e questo comunque è il nostro piccolo cruccio di Nicoletta. Dovremmo lavorare un po' meglio, un po' di più sulla nostra capacità di andare all'esterno. C'è un altro grande tema molto importante per Confconsumatori che per esempio è tutto il tema dell'assistenza ai malati di Alzheimer, quindi è un tema profondamente cuore denari, e adesso ne parleremo, ma tutto questo devo farlo dopo il traffico negli ultimi minuti di tempo che ci rimangono. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Cuore e Denari. Peraltro mi ricavo anche un secondo di tempo per fare un domandone, va, per movimentare le nostre telefonate negli ultimi minuti di tempo. Sapete, lo chiedo ai nostri ascoltatori, chi viene considerato il padre del consumerismo italiano, colui che nel 1955 ha fondato l'Unione Nazionale Consumatori? Raccontatecelo all'800 24 00 24 e da qua, come al solito, partiranno dei libri. Allora, peraltro, a proposito di specificità relativamente alle proprie battaglie, una peculiarità di Altro Consumo, invece, Luisa Crisigiovanni, è quella di fare i blitz, no? Voi vi travestite un po' da consumatori veri e propri, andate per esempio in banca a, che ne so, trattare per ottenere certi servizi, per vedere come si comportano, no? Questo è un vostro tratto distintivo, se dovessimo raccontare un po' quelli che sono i tipici delle associazioni dei consumatori. Voi tra l'altro avete un enorme call center, siete anche un gruppo editoriale, quindi il vostro è un mondo anche un po' più complesso rispetto alle altre associazioni dei consumatori, però dicevo, un tratto particolare è quello. Allora, noi innanzitutto, per completare anche il quadro che tu hai fornito di noi, siamo un'organizzazione che, a differenza delle altre associazioni italiane, si basa su una popolazione, diciamo una community di oltre 399.000 soci che fanno il 90% appunto del nostro budget, che ci consente di fare quelle famose indagini. In realtà i blitz, come li chiami tu, nelle banche, piuttosto che i test, gli oltre 3.000 test di prodotti e servizi che pubblichiamo. Com'è che si dice in gergo il mystery shopping? Il mystery shopping e anche ovviamente consigli sempre più individuali per i soci. Poi in realtà, rispetto a quelli che sono i fondi messi a disposizione dalle multe antitrust, grazie proprio a questo mystery shopping, si vanno a finanziare dei progetti che sono poi alla fine delle campagne di informazione. In questo caso voglio lanciare anche un assist a Nicoletta, perché Diritti in Salute è un progetto che esiste sempre sul sito di Altro Consumo, con un numero verde a disposizione di tutti, ma soprattutto delle chat online, che proprio informa, diciamo, ha la pretesa di informare su quelle che sono le prestazioni a cui si ha diritto attraverso il servizio sanitario e l'appropriatezza delle cure, giusto per dire come vengono poi spesi i soldi dei progetti. Però dicevo, la nostra specificità è proprio quella. L'ho acchiappato, messaggio brava, ricevuto, è la nostra donna, insomma. Ma per fare diciamo tutto questo ci vuole appunto la grossa forza e il sostegno dei soci, che vale sia per le campagne come quello legato al costruire il mondo digitale consapevole, che anche altre campagne, nonché azioni collettive risarcitorie dove si possono fare. E non è vero che non abbiamo, anzi che non avete, Deborah, o non abbiamo insieme lanciato degli allerta, perché ricordo che quando sono stata eletta segretario generale di Altroconsumo qualche anno fa, tu mi chiamassi per dire quali sono, diciamo, i tuoi auspici, e si evocò il fatto che a fronte, diciamo, di frodi, quindi non tanto di problemi legati, ci possono essere, no, agli errori di produzione di mercato, ci fosse, diciamo, un'attenzione alle pratiche commerciali scorrette, sì, da parte della nostra associazione, e quindi prefiggessimo di coordinarci con altre associazioni di consumatori in Europa e le autorità di vigilanza per perseguire quei gruppi, come in questo caso fu il caso di Volkswagen, che appunto avessero di fatto violato le norme sulle pratiche commerciali scorrette. Questo è stato poi confermato sia dall'antitrust italiano, e azioni collettive risarcitorie, quindi legate allo scandalo Dieselgate, ma anche allo scandalo sul consumo dei carburanti, sono pendenti nel nostro paese. Certo. E Altroconsumo, sono orgogliosa di dire, è stata l'associazione che ha potuto produrre i test per, che sono, diciamo, l'evidenza per noi dello sforamento dei limiti, per esempio, delle emissioni NOx e anche, diciamo, di CO2, su cui peraltro, per tornare sempre in Europa, il Parlamento europeo proprio oggi sta deliberando, quindi per avere delle norme più severe in termini di omologazione e quindi dei controlli indipendenti sul fatto che poi quello che ci viene venduto, sia un'auto, una lavatrice o una merendina, effettivamente risponda alle norme europee, e quindi i consumatori ne possano beneficiare, e se ci sono violazioni ci sia risarcimento. Benissimo. Allora, intanto ricordo ancora ai nostri ascoltatori, se volete rispondere al nostro domandone, chi è che nel 1955 ha fondato l'Unione Nazionale Consumatori ed è colui che viene considerato il padre del consumerismo italiano. 800 24 00 24. Maracolla, le ultime considerazioni invece sulla vostra importante battaglia, quella che riguarda le rette per le residenze sanitarie per i malati di Alzheimer. Ne abbiamo parlato spesso, l'abbiamo raccontata, questa vostra grande azione di lotta vi ha portato a qualche risultato. So che c'è un pronunciamento recente del Tribunale di Monza, se non mi ricordo male, e magari sarà l'occasione, la lanciamo per adesso, ricordiamo, e per poi magari tornarci insieme a Nicoletta per fare una puntata completa su tutta questa questione molto delicata per tante famiglie italiane. Mara. Non c'è dubbio. È un tema questo che abbiamo voluto affrontare proprio perché i cittadini non trovavano udienza da nessuno e sono approdati a noi, e abbiamo voluto ascoltarli e approfondire la cosa. Stiamo organizzando un convegno per presentare lo studio che abbiamo fatto e anche delle proposte, facendo parlare tutti, le istituzioni in primis, ma anche le associazioni dei malati e noi che vogliamo tutelare e rappresentare la voce di queste famiglie in difficoltà. Come sappiamo e come anche la magistratura ci dice, gli oneri non sono e non possono essere posti a carico delle famiglie, perlomeno non tutti, e questo significa che tante famiglie riuscirebbero ad assistere meglio i loro familiari malati in una condizione normativa differente, che noi invitiamo caldamente l'amministrazione pubblica ad adottare. Il lavoro che stiamo facendo è da un lato di denuncia, ma dall'altro lato, e molto di più, è di confronto, spinta. Evidentemente non possiamo lasciare che questo problema si risolva nelle aule giudiziarie. Siamo fatti così noi della Confconsumatori, non è che pensiamo solo all'interesse economico e materiale delle persone, ma vorremmo pensare anche al benessere complessivo delle famiglie, e quindi ci domandiamo, per richiamare ancora quello che diceva John Kennedy in un'altra occasione diversa da quella che abbiamo citato, non chiedere cosa può fare il tuo paese per te, ma vedi cosa puoi fare tu per il tuo paese. E noi nel nostro piccolo facciamo quello che stiamo facendo con impegno, grazie, civico e compassione civica. Grazie, grazie a Luisa Crisi Giovanni, a Mara Colla per essere stato con noi, Virginia da Como, che ha fondato l'Unione Nazionale Consumatori, che è considerato il padre del consumerismo italiano. Vincenzo Dona. Grazie Virginia. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Intanto, altrettanto, Cuore e Denari, velocissimamente, termina qui Nicoletta, ma a noi domani, torniamo domani. Certo. Buona giornata.